La vita in un film di Franco D'Assisi. Onorevoli colleghi, questa mattina qualcuno seduto in quest'aula, per dimostrare il suo disprezzo nei confronti della mia presenza qui, ha mormorato un cafone in Parlamento. Bene, sappiate che questo titolo non mi offende, anzi, mi onora. Infatti, se io valgo qualche cosa, se io sono qua, lo devo a tutti quei braccianti analfabeti che hanno dormito insieme a me nelle cafonerie, che con me hanno mangiato pane e olio. C'è un sogno che mi ha portato qua, ed è quello di vedere un giorno i braccianti del sud e gli operai del nord camminare fianco a fianco, lottare per gli stessi diritti. Ebbene, per questo sogno io sono disposto a lottare. Le parole di Giuseppe Di Vittorio, interpretato da Pierfrancesco Favino nel film per la TV Pane e Libertà, aprono questa puntata del nostro programma La vita in un film. Come sempre, ogni giorno un tema attorno al quale ragionare, nel quale rivedersi o rivedere un pezzo di se stessi dentro la storia del cinema. Oggi il tema che abbiamo scelto è la ribellione, ribellarsi certo in questo caso Pierfrancesco Favino, anzi Di Vittorio, lo ha fatto all'interno di un contesto storico molto ampio, di un momento storico importante di transizione. Ci sono altre ribellioni, anche private, anche individuali, anche contro chi ci vessa tutti i giorni, magari sul posto di lavoro, magari nelle convenzioni della famiglia. Ecco, questo è il tema di oggi, quella volta che ci siamo in qualche modo ribellati, da grandi, da piccoli, un po' a tutte le età. E se abbiamo visto un pezzo, abbiamo rivisto una parte di questa nostra ribellione in un film, nella storia del cinema. Come sempre le vostre chiamate sono possibili già da subito all'800 24 00 24. Avremo spazio per tutti, avremo la possibilità di farvi chiacchierare con il nostro ospite che è Pierfrancesco Favino, appunto il protagonista di questo straordinario Giuseppe Di Vittorio. Pierfrancesco, so che sei già in collegamento. Ciao. Sono qua. Ciao. Eccoti qua, benvenuto alla vita in un film qui su Radio 24 in diretta per chiacchierare appunto di questo tema, la ribellione. Era un ribelle Giuseppe Di Vittorio? Beh sì, lo era, soprattutto visti i tempi, insomma, era quasi impudica la sua maniera di esserlo, vista l'epoca e vista da dove proveniva, soprattutto nel meridione d'Italia, in più nella condizione sociale nella quale si trovava, per cui è stato sicuramente un ribelle. Lo è stato a tutti gli effetti, e la sua intelligenza è stata quella però poi di riuscire, insomma, da questa ribellione ad arrivare a qualcosa di assolutamente concreto, che fosse in qualche modo una ribellione totalmente creativa, proprio nel senso più reale del termine, cioè che riuscisse a creare qualcosa di diverso, condizioni diverse di lavoro e dignità per le persone per le quali poi lui lottava. Insomma, è riuscito a convogliare questa ribellione. Invece ti chiedo, Pierfrancesco Favino si sente un ribelle o si è sentito un ribelle da giovane, da ragazzo, insomma, che giovane sei ancora giovane, insomma, da ragazzo? Beh sì, ci sono delle cose che io ho fatto per ribellione, come per esempio il mio mestiere, cioè, se fosse stato per i miei genitori non l'avrei fatto, per cui mi è toccato ribellarmi attraverso questa ribellione. Ho imparato un sacco di cose, soprattutto anche la consapevolezza del fatto che volessi veramente farlo, però è passata attraverso una ribellione. Allora, noi andiamo ad ascoltare un passaggio del film Pane e Libertà, nel quale dopo un'iniziale strenua e anche molto difficile lotta i lavoratori, i braccianti appunto delle terre attorno a Cerignola, dove si svolge appunto il film inizialmente, dettano un po' le condizioni, insomma, smettono di lavorare e dicono: noi non andiamo avanti se non arrivano alcune cose, ed è proprio Giuseppe Di Vittorio a raccontarle così. Le nostre condizioni sono queste qua. Più di 9 ore a giornata. Non dobbiamo faticare. Il mangiare deve essere di 1 litro di acqua e 1 chilo di pane di grano. 5 lire di paga quando tagliamo il fieno. E 4 lire per la mietitura e la semina. Quando concimiamo, 5 lire. 3 lire per la vendemmia quando si fanno le fave. E 5 per la potatura. Donne e ragazzi, se faticano alla vendemmia, devono avere 3 lire al giorno. Se viene a piovere, il padrone deve dare 1 lira di più. Ah, signor Barone, ci correggiamo. Il mangiare deve essere 1 litro di acqua, 1 chilo di pane di grano e pure 1 litro di vino. Va bene. Questo era il momento in cui venivano appunto dettate le condizioni. 800 24 0024 è il numero di telefono della Vita in un Film per partecipare. Come sempre vi aspettano biglietti per il cinema, che ci sembra la cosa migliore da ricevere da una trasmissione che parla appunto di film e di cinema. Ribellioni, abbiamo sentito una ribellione appunto storica, ne sentiremo delle altre parti di questa di questo film per la TV, appunto Pane e Libertà, ma anche il Sud è stato territorio di ribellione da altre parti. Ricordiamo per esempio i 100 passi di Marco Tullio Giordana, era un film che raccontava una storia spostata nel tempo avanti di una trentina d'anni, la generazione degli anni 70 che stava cambiando un po' il mondo un po' dappertutto, cercava di farlo con molte più difficoltà però anche in Sicilia. Peppino Impastato a Cinisi da una radio, anche in quel caso, che ha avuto il suo bel ruolo, il suo bel peso, attaccava in maniera molto forte la mafia, e per fare questo si ribellava non solo al contesto sociale ma anche alla figura paterna, alla sua famiglia, soprattutto al padre. Sentiamo. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? 1, 2, 3, 4, sai contare? Sì, so contare. Sai camminare? So camminare. Allora forza, con te cammina. Vai. 1, 2, 3. Dove ti mandare? Forza, conta e cammini. Piano, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci sono da casa nostra, 100 passi. Vivi nella stessa strada, prendi il caffè nello stesso bar. Alla fine ti sembrano come te, e invece sono loro i padroni di Cinisi. E mio padre, Luigi Impastato, gli lecca il culo come tutti gli altri. Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda. Noi ci dobbiamo ribellare, prima che sia troppo tardi. Prima di abituarci alle loro facce. Prima di non accorgerci più di niente. Una figura sotto un certo profilo eroica, possiamo dire, quella di appunto di Peppino Impastato. Pierfrancesco Favino, si può essere ribelli senza essere eroi? Cioè si può essere ribelli nel proprio privato? Dipende in che cosa si svolge questa ribellione. In certi casi lo si deve essere. Cioè l'adolescenza in questo senso proprio segna questo momento in una maniera fatale. Non si può diventare uomini senza esserlo, non si può uccidere in maniera, come diceva Gigi Locascio adesso, in maniera figurata il proprio padre se si vuole diventare uomini, per cui è necessario, fa parte della crescita dell'uomo, e indissolubilmente credo. La vita in un film. La nostra è una vita di sofferenze, ma so anche che la causa è talmente giusta che merita di essere servita, anche a costo di enormi sacrifici. E quando si ha questa consapevolezza, ognuno di noi può dire a se stesso: ho fatto il mio dovere. Fino in fondo. E queste erano le parole di Giuseppe Di Vittorio, tratte da Pane e Libertà, il film interpretato da Pierfrancesco Favino, che è nostro ospite qui alla Vita in un Film. Parliamo di ribellione al nostro programma, all'800 24 0024, le grandi ribellioni private e pubbliche, storiche e individuali della storia del cinema. È in collegamento con noi all'800 24 0024 il primo ascoltatore di questa puntata, Aureliano, che chiama dalla provincia di Campobasso, che non è tanto distante dall'epicentro narrativo appunto di Pane e Libertà. Aureliano, buonasera. Buonasera. Allora, quale ribellione insomma ha visto o rivisto nella storia del cinema che l'ha un po' ricordato un pezzo della sua vita? Nel film di Di Vittorio ho rivisto parte della mia gioventù. Non sono un ragazzino, ho 55 anni e facevo il manutentore in una ceramica qui nella mia zona, a San Salvo per la precisione. Il proprietario era di Modena e mandava i soliti capetti. Uno di questi è venuto giù ed era un dittatorello. Io ero una persona molto ligia al mio dovere, facevo il manutentore elettrico, e questo qui mi vessava tutti i giorni. Quando non avevo da fare interventi elettrici voleva che facessi altre mansioni, ed io un giorno mi sono ribellato. L'ho trattato in malo modo, l'ho anche terrorizzato, diciamo. Ecco, quindi possiamo dire che, tra l'altro, è un dato un po' da quelle parti, la figura proprio, anche il carisma di Giuseppe Di Vittorio, un uomo che veniva dalla terra, assolutamente dalla base, siano ancora vive in un certo senso, no? Io sono apolitico perché faccio l'artigiano, però sono un vostro fedelissimo ascoltatore, tutte le sere vi ascolto nella mia bottega di artigiano, quando ho cesso il lavoro esterno da artigiano elettronico, e vado in sede e vi ascolto molto volentieri. E mi sono rivisto in questa puntata e ho voluto intervenire. Perfetto, grazie allora ad Aureliano da Campobasso. 5 biglietti, 5 serate di Grande Cinema nel cofanetto Wazoo che Aureliano riceverà a casa. Ci sono già altri ascoltatori, sentiamo Fabio da Milano. Pronto? Pronto Fabio, buonasera. Buonasera. Quale ribelle? Io ricordo con piacere il film Donny Brasco, dove Johnny Depp e Al Pacino, un grandissimo Al Pacino, interpretavano appunto la parte di Gio Pistone, che è un infiltrato con il nome in codice Donny Brasco all'interno di un gruppo mafioso in America. È una storia veramente accaduta ed è la ribellione verso la schiavitù della mafia. In realtà l'infiltrato poi alla fine fa in modo che vengano arrestati, se non ricordo male, circa 150 mafiosi italoamericani in America. Tema molto d'attualità, tra l'altro, visto che si parla molto di extracomunitari e noi lo siamo stati in America, e a volte si dice che noi siamo soltanto stati buoni lavoratori, in realtà non sempre purtroppo gli italiani hanno portato il meglio in giro per il mondo. Quindi vabbè, a parte questo, in ogni caso la ribellione è contro la mafia e quindi questo mi faceva piacere. Certo. Grazie anche a Fabio da Milano, 2 biglietti per il cinema anche per lui. Per Francesco Favino, hai sentito, i nostri ascoltatori cominciano a delineare un profilo del ribelle cinematografico. Tra l'altro il primo ascoltatore ha proprio citato il tuo Di Vittorio, insomma, di Pane e Libertà. Invece il ribelle del cinema che è rimasto più addosso alla pelle di Pier Francesco Favino qual è? Per una strana ragione, probabilmente il libanese di Romanzo Criminale, che si è visto in una maniera non propriamente morale, diciamo, però tutto sommato ha agito in una maniera ribelle, già formando un gruppo che in qualche modo si contrapponeva a quelle che erano le leggi, pur non scritte, di quella che era la criminalità romana di quel momento. E paradossalmente a Roma rimango il libanese, insomma, in qualche modo, e non sono particolarmente fiero del fatto che sia quel tipo di ribellione che mi si vede addosso di più, però forse sono personaggi talmente forti che sono quelli che poi rimangono anche in una maniera più evidente nell'immaginario collettivo di chi guarda. Abbiamo parlato di ribellioni appunto storiche, fra virgolette, e anche di altre individuali. Proprio da quest'ultima tipologia vogliamo estrarre una clip che vogliamo farvi ascoltare. Un film che parla di una ribellione, anche qui con mezzi abbastanza dispari, no? In un certo senso, ma sicuramente una ribellione da quell'abito spesso mortale che il lavoro, le convenzioni sociali ci cuciono addosso, è American Beauty di Sam Mendes, 10 anni fa, un film straordinario con Kevin Spacey grande protagonista nei panni di questo personaggio Lester in piena depressione, le cose non gli vanno bene in famiglia, la situazione peggiora anche perché Lester si invaghisce di una giovanissima ragazza, una delle migliori amiche della figlia, Mena Suvari. A un certo punto c'è una scena in cui Lester molla tutto e lo annuncia così alla sua consorte, sentiamo. Jenny, oggi ho lasciato il lavoro. Poi ho detto al mio capo di andare a fare in culo e poi l'ho ricattato per quasi 60.000 dollari. Passami gli asparagi. Tuo padre sembra credere che questo sia un comportamento di cui andare fiero. E tua madre sembra preferire che passi la vita come uno squallido prigioniero. E mi meraviglio che tu possa essere così sprezzante con me lo stesso giorno in cui hai perso il lavoro. Non l'ho perso, non è mica. Ups, dove è finito il lavoro? L'ho lasciato. Ne ho piene le tasche di farmi trattare come se non esistessi. Voi due fate quello che volete, quando volete farlo, e io non mi lamento. Se tu non ti lamenti, questo cos'è? Sì, prendiamo il risatometro e vediamo quanto raggiunge con questa battuta. Tu non ti lamenti. Non interessa. interrompermi, tesoro. Beh, però le ha detto tesoro alla fine, tutto sommato se l'è cavata il nostro Kevin Spacey. Abbiamo all'800 24 00 24 ancora chiamate. Massimo da Messina, buonasera Massimo. Buonasera. Allora, ci racconti un po' la sua ribellione cinematografica. Ma sicuramente quella di Jack Nicholson nel film Qualcuno volò sul nido del cuculo, dove lui in pratica viene costretto a diventare pazzo perché si ribella contro il potere precostituito che era rappresentato dall'infermiera, dove praticamente lui riesce a coinvolgere un manipolo di dementi, a ribellarsi anche loro, a fare delle cose un po' strane, a portarseli in giro, in gita sulla barca, dove loro praticamente vivono il momento penso migliore della loro vita. E in pratica anche io mi rivedo in lui, perché anch'io sin da quando ero a scuola lottavo contro i professori, lottavo contro chi cercava di imporre il suo potere, e tuttora nel mondo del lavoro cerco un pochino di difendere i più deboli contro i soprusi di quelli che comandano, insomma. Quindi mi rivedo molto in Jack Nicholson, che poi purtroppo alla fine è stato costretto tramite un intervento al cervello a diventare anche lui un demente, che però è stato liberato poi dall'indiano in qualche modo, facendolo morire, che in pratica è stata la sua libertà, poi la morte, per non costringerlo insomma a stare per tutta la vita in quella situazione di coma vegetale. Certo, viene proprio fatto rientrare nei ranghi. Grazie a Massimo da Messina, biglietti per il cinema anche per lui. Manuela da Milano, buonasera. Salve, buonasera. Allora, Manuela. Allora, a me è entusiasmato il film Billy Elliot, perché questo ragazzino che si ribella soprattutto nei confronti del padre, perché la madre mi sembra che non ci sia più, perché si è appassionato alla danza anziché alla box, che era lo sport che invece il padre voleva far fare. Assolutamente un anticonformista in questo senso. Tra l'altro c'è un ricorso storico, perché Billy Elliot è stato già citato come film ieri sulla figura del padre, perché anche il padre insomma è una figura che a un certo punto esce dalle convenzioni sociali, in un certo senso ribelle anche lui e appoggia il figlio pur malvolentieri inizialmente, e oggi invece il ragazzino ribelle proprio a una situazione sociale che lo vorrebbe vedere abbandonare questa sua passione, no? Infatti, e diciamo, io mi sono rivista molto in questo, perché il ragazzino vuole fare danza anziché box, e invece io ero proprio il contrario, io non volevo fare danza ma volevo fare box. E allora doveva essere Million Dollar Baby il suo film. Beh no, però questo sarà perché l'ho visto più recentemente, quindi ricordo è più vivo, e veramente mi ha molto colpito la grinta di questo ragazzo che insomma mette le scarpette, sfida amici e quant'altro e la famiglia pur di diciamo raggiungere il suo sogno, insomma, che poi ce la fa, insomma. Certo, assolutamente. Grazie anche Emanuele da Milano questo intervento. Noi abbiamo sentito prima un ascoltatore che raccontava della pazzia di Jack Nicholson, che a un certo punto viene addirittura ridotto ai ranghi con una operazione, una sorta di lobotomia, insomma, ecco. Chi rischia certo di impazzire, sfiora la pazzia, anzi forse la vive per molti momenti del film, è Truman Burbank, il protagonista di Truman Show, lo straordinario film di Peter Weir con Jim Carrey, ricorderete, quest'uomo che viene filmato per tutta la sua vita in una situazione artificiale della quale lui non si rende conto, ma quando se ne rende conto si ribella. Sentiamo. Perché vuoi avere un figlio da me? Tu non mi sopporti. Questo non è vero. Te la preparo una bella tazza del nuovo Mococoa? Con bacche di cacao naturali delle alte pendici del Monte Nicaragua, senza dolcificanti chimici. Con chi stai parlando? Ho assaggiato altro cioccolato. Questo è il migliore. Ma che diavolo c'entra questo adesso con tutto il resto? Dimmi che sta succedendo! Beh, hai un esaurimento nervoso, ecco che sta succedendo. Ci sei dentro anche tu. Truman! Meryl! Mi stai facendo paura! No, tu mi fai paura, Meryl. Che cosa vuoi fare? Affettarmi? Grattugiarmi o sbucciarmi? Hai visto quanta scelta? Fate qualcosa! Cosa? Che cosa hai detto? Con chi parli? Niente! Non ho detto niente! E questo è il momento in cui l'atteggiamento di Truman cambia. Andiamo ancora dal nostro ospite Pierfrancesco Favino, il Di Vittorio di Pane e Libertà. Pierfrancesco, abbiamo un minuto per chiudere. Io voglio chiederti, come chiediamo a tutti i nostri ospiti, qual è il film in cui, nella storia, da quando tu ricordi qualcosa al cinema, hai rivisto un pezzo di te, hai rivisto un pezzo di Pierfrancesco Favino e hai detto quello potevo essere io? Oh, ma mamma mia, che è grossa, è grossa, per i miei aspetti personali, assolutamente. Sì, sì. Dove ti sei rivisto? In tantissimi film, in realtà. Io credo che non ce n'è uno in particolare. Io uno dei miei film preferiti è 8 e mezzo. Sto ancora cercando di capire perché, e tutto sommato ci rivedo qualcosa di me lì dentro, perché è talmente un'opera completa che insomma, è difficile riuscire a capire esattamente che cosa, però tutte le volte che lo vedo ho la sensazione di appartenere in qualche modo a quella storia. Grazie per Francesco Favino per essere stato qui con noi su Radio 24 alla vita in un film. Grazie a voi. E allora noi a questo punto andiamo a chiudere la nostra trasmissione, l'appuntamento va a domani, sarà qui con noi Virna Lisi e parleremo del contrario della ribellione, cioè il ritorno alla famiglia, quelle figure carismatiche che in famiglia ci sono, nelle quali tutti prima o poi pensiamo di tornare. Fabio Cantadori ha curato la regia, grazie a Valeria Coffaro in redazione, appuntamento a domani con La vita in un film.